Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. In questo momento sto bene. Non ho pensieri ricorrenti che mi perseguitano durante il giorno. Le paure sono messe da parte. Torneranno. Ora no, però. Mi chiamo Fabio, ho 29 anni, vivo e lavoro in provincia di Treviso, faccio il sistemista informatico. Amo molto leggere e fare camminate in montagna. Di giugno del 2014, sono le 16:07 minuti, quasi 8, in diretta dagli studi di Milano. Ed essendo la prima puntata del mese di giugno, essendo lunedì 2 giugno, ovviamente era domenica, quindi non potevamo essere in onda. Essendo, dicevo, la prima puntata del mese di giugno, comincia il countdown verso quello che è un pochettino la festa di fine anno di Voi Siete Qui. Uno spettacolo, anche se aspetto a dire spettacolo, al momento era soltanto una serata finale, un evento finale in cui leggevamo 10 tra le storie che c'erano arrivate, gli ascoltatori che avevano voglia di venire venivano nella sala Collina qui in via Monterosa 91 e era di fatto un reading e un ritrovarsi alla fine della stagione. Quest'anno, grazie alla musica che state sentendo sotto la mia voce, sarà soprattutto uno spettacolo. E questo indubbiamente grazie alla voce di Vanessa che sentite in sottofondo, Vanessa Tagliabue York, ma anche grazie soprattutto alla musica di Mauro Ottolini. Pronto Mauro? Pronto Matteo, ciao! Come stai? Benissimo, intanto grazie per questa splendida presentazione che ci hai fatto. Ma di cosa? Grazie a te, grazie a voi che verrete, ricordo, il 26 di giugno del 2014 ovviamente, il 26 di giugno, il live di Voi Siete Qui, Mauro Ottolini e la sua band di Susa Phonix dal vivo per il live di Voi Siete Qui. Ancora non abbiamo messo online il form per iscriversi al live, questo lo sto dicendo Mauro agli ascoltatori, ma abbiate pazienza uno o due giorni e sarà online sul nostro sito radio24.it. Mauro, so che sei in partenza per la Francia, giusto? Sì, sto partendo domani mattina, ho scritto della musica per un'orchestra straordinaria, si chiama Orchestra Surnaturel, che si occupa di musica improvvisata, più che altro di performance con musica e teatro, una cosa molto divertente, un po' come sono i Susa Phonix, insomma, ecco, una specie di Susa Phonix francese. Mauro Ottolini, lo ricordiamo per chi non lo conoscesse, per chi non avesse molta dimestichezza con la musica jazz. Marco, tu sei, Mauro, sei trombonista, compositore e arrangiatore. Un anno e mezzo fa, circa due, Mauro Ottolini vince il Top Jazz, il premio Top Jazz, che è come musicista italiano dell'anno, che è di fatto il premio per il jazz più importante che ci sia. E nel 2013, invece, con lo scorso disco, correggimi se sbaglio, Mauro, il Bix Factor, voi vincete, sì. Viene eletto disco dell'anno, disco jazz dell'anno, giusto? Allora, è stato votato tra i migliori dischi dell'anno stampati in tutto il mondo, tra i migliori 100 dischi, e in Italia è arrivato tra i primi 3 posti, diciamo, nella categoria dischi italiani di jazz, però a livello mondiale è stato battezzato come 300 milioni di usciti di jazz. Anche se il nostro, sai benissimo Matteo, che è un disco libero, quindi è una specie di film invisibile, cioè un disco che va ascoltato con delle letture, proprio un po' molto vicino alla trasmissione che fai tu. Certo, è quello che faremo, che faremo insieme. Il 26 di giugno. Mauro, mi racconti in quanti sarete sul palco e quali saranno gli strumenti il 26 di giugno al live? Allora, noi saremo con i Susa Phonix, che è una piccola orchestra che insomma utilizza strumenti anche arcaici per fare musica però in chiave molto contemporanea. Allora, noi saremo una decina di persone circa, e quindi utilizzeremo dal banjo, le percussioni, la batteria, il theremin, che è uno strumento a onde elettromagnetiche molto particolare, sì. I giocattoli dei bambini con i loro rumori, i loro suoni particolari, abbiamo il sousaphone, avremo degli organetti a pedali degli anni 20, insomma, strumenti a fiato, un po' di tutto. Insomma, saremo in tanti sul palco quella sera. Io ricordo quindi, Lada, io ringrazio innanzitutto ancora Mauro Ottolini e Sousaphonics per aver accettato il nostro invito. Mauro, io ti lascio partire per la Francia e ci sentiamo, insomma, per provare prima e poi per la serata del 26 di giugno. Saluti a tutti i componenti della band. Ciao, buona giornata. Grazie, grazie. Ciao. Io vi ricordo ancora il live di Voi Siete Qui, 26 giugno 2014. A breve potrete iscrivervi sul nostro sito. E continuiamo il programma in diretta anche il 2 di giugno, dopo aver chiuso la parentesi live insieme a Mauro Ottolini e alla sua band. Raccontiamo la storia, facciamo quello che facciamo tutti i giorni, cioè raccontiamo la storia. La storia di oggi è la storia di Fabio, è una storia che non oserei definire particolare, anzi è una storia piuttosto normale nella sua possibilità di accadere alle persone, e questo è di fatto uno dei pezzi fondamentali di questo programma. Ogni giorno raccontiamo una storia che appartenga a qualcuno e che quindi lo rappresenti, ma che in qualche modo appartenga a tutti. Ce ne sono alcune che sono straordinarie, quindi è difficile che appartengano a tutti, e alcune di queste verranno inserite nello spettacolo finale il 26 di giugno, e ce ne sono altre invece molto comuni. La storia di Fabio è molto comune, però è straordinaria per come lui è riuscito a prendere un momento che ci è capitato di vivere, sicuramente ci è capitato di vivere, l'ha come congelato, l'ha tirato fuori e ce l'ha mostrato. È il momento in cui a un certo punto ti accorgi che stai talmente bene con una persona che poi magari non va a finire come vorresti, però con quella persona lì potrebbe essere che succeda qualche cosa. 349 238 6666, oppure Voi Siete Qui Radio 24 al profilo Facebook, se avete uno smartphone tra le mani anche Voi Siete Qui R24 al profilo Twitter, oppure Matteo Caccia è semplicemente il mio. Se avete voglia di condividere con noi qual è stato il momento in cui avete capito che quella o quello erano la persona giusta per voi. Mauro scrive: Madrid, 16 settembre 2011, e fra 33 giorni mi sposo. Maria, quasi 36 anni fa, avevo 15 anni. Ora aspetto solo di diventare nonna. 349 238 6666. Ogni giorno una storia diversa, ogni giorno una persona diversa. Questa è la storia di Fabio. La lampada proietta il fascio di luce verso l'alto, ad illuminare il soffitto con le travi a vista del piccolo salotto. Il colore caldo della luce, la tonalità del legno, il profumo nell'ambiente. La pioggia, che batte a tratti leggera e a tratti pesante sul tetto, mentre si sta al coperto. Ecco, in questo momento sto bene. Non ho pensieri ricorrenti che mi perseguitano durante il giorno. Le paure sono messe da parte. Torneranno? Ora no, però. Guardo un film che non è male, ma che non ha la mia attenzione. Il ritmo è lento, quindi posso approfittare per spostare lo sguardo di tanto in tanto. Accanto a me, sul divano, i due bicchieri di vino che abbiamo bevuto stasera. Scelta azzeccata. Sul fondo è rimasto un po' di quel nettare. Franco con attacco di frutti a bacca rossa matura, leggo dall'etichetta. Io so solo di non aver sbagliato la scelta. Sposto la testa, ti guardo e accenno un mezzo sorriso. Era un po' di tempo che volevo fare questa serata e mi ero preparato per il meglio. Fortunatamente è andato tutto bene e ho voluto appunto fermare quei momenti scrivendo la storia. E l'ho notato, sai? Stasera quando ti ho vista avevi messo quel filo di trucco che non metti quasi mai, ma che devo dire ti sta bene. Forse non è solo quello. Appena sei entrata in casa ho visto subito dal tuo sorriso che eri tranquilla, a tuo agio, rilassata, che eri contenta di essere qui con me, che eri curiosa di sapere cosa avrei cucinato e scherzosamente provavi ad entrare in cucina ed io con un tono giocoso e fintamente scocciato ti mandavo via. Ti ho passato la bottiglia e il cavatappi, così ti impegno e non vieni a curiosare. Insomma, l'atmosfera era quella giusta. Tu hai aperto il vino e mi hai passato il bicchiere. Cincina noi, naturalmente. Abbiamo bevuto, ci siamo guardati per qualche istante. Poi i fornelli hanno richiamato la mia attenzione e tu sei andata a scegliere la musica. Questa volta non hai modificato la mia playlist. Buon segno. Ho portato i piatti in tavola. Mi sono seduto, ho alzato il calice e l'ho portato verso il centro del tavolo, all'altezza degli occhi. Ci siamo guardati il tempo necessario per permettermi di pensare che i tuoi occhi nocciola sono bellissimi quando sorridi, ma non te l'ho detto. I bicchieri si toccano, un breve tintinnio. È andato tutto come doveva andare. Siccome non era un periodo che andava tutto benissimo, diciamo, in quella serata lì proprio tutti i pensieri sono spariti, perché mi sono proprio sentito bene e proprio volevo godermi l'attimo. Quindi ho riconosciuto in quei momenti uno stato di benessere che volevo proprio fotografare. Mi capita di rado, ma ora penso di essere dove vorrei essere. Qui con te, davanti ad una TV trascurata e coccolati dal calore di una coperta leggera. Lontani dal brutto tempo che c'è fuori, lontano dagli sguardi vuoti della gente che incontri passeggiando, dalle urla, dai litigi, dal rumore del traffico e dallo stress delle giornate sempre uguali. Lontano dalle domande che non possono avere una risposta, lontano dalle paure che ci impediscono di fare i passi che andrebbero fatti. Lontano dalle parole che non escono mai dalla bocca quando dovrebbero e da quelle che escono quando invece dovremmo starcene zitti. Lontano dall'assordante silenzio delle giornate in solitudine, dalle delusioni che ci arrivano dalle persone che crediamo di conoscere. Lontano da tutto ciò che non vogliamo fare, ma che facciamo più per conformismo che altro. Lontano dal tempo sprecato. Tu stai sonnecchiando, vedo la coperta alzarsi e abbassarsi al ritmo del respiro. Seguo la forma del tuo corpo avvolto dalla coperta colorata. Abbasso la testa e guardo i tuoi capelli lisci e lunghi. Mi avvicino ed accolgo un po' del tuo profumo. Sì, in questo momento sto bene qui. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Ricordate la volta in cui con il vostro compagno, fidanzata o marito siete stati come è stato Fabio quella sera nel racconto? Io sì. Era una sera di qualche anno fa. Mi trovavo in una città straniera con una ragazza che conoscevo abbastanza poco. Indipendentemente da come è andata a finire, la sensazione di stare bene in quel posto lì e di non voler essere da nessun'altra parte la ricordo molto, molto bene. Apro gli occhi e non capisco dove sono. Mi volto e vedo Alice che dorme con la pace di chi non ha più bisogno di niente. Mi tiro su, resto qualche secondo seduto sul letto cercando di capire di che cosa ho bisogno. Credo di essere ancora un po' ubriaco. Due martini cocktail sono effettivamente troppi per uno che è sempre stato astemio. Fuori la notte è ancora buia. Guardo l'enorme orologio a muro, 4:30. Alice fa un versetto di quelli che si fanno nel sonno. Provo ad alzarmi, sento le gambe che mi reggono a fatica. Andando verso il frigo inciampo in una bottiglia di birra che rotola sul pavimento in legno. Alice fa un altro mugugno e torna a dormire. Nel frigo non c'è molto, ma trovo una bottiglietta di aranciata aperta. Ne bevo un po'. È sgasata, ma almeno è fresca. Ho bisogno di aria. Vado verso il terrazzo. Apro piano una delle vetrate. Esco. Intorno i grattacieli grattano il cielo che si sta facendo chiaro. Sento una musica che mi sembra di conoscere. Non capisco se è nella mia testa o se lo sto sentendo veramente. Mi volto, vedo Alice seduta al piano che accarezza i tasti quasi fossero figli. È come se sentendola suonare questo pezzo, tutto nella mia testa si stesse chiarendo. Il problema è che non capisco che cosa si stia chiarendo. Entro in casa, lei smette di suonare e mi guarda seria. Poi la sua bocca si apre in un sorriso. Un sorriso che riconosco all'istante. Un sorriso che sembra quasi il sole quando sorge. Il sole che sta sorgendo e che filtra dalle vetrate, illuminando tutta la casa. «Vuoi che ti racconti tutto?» mi chiede accendendosi una sigaretta. Io rimango immobile qualche secondo, poi le dico che no, che non ho voglia, che non me ne frega niente. E poi, anche se sta venendo giorno, torniamo a letto. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Foto tutti i giorni sul nostro sito che racconta un pezzo in più della storia che abbiamo raccontato in radio. È la foto della persona che ci ha mandato la storia, in questo caso la foto di Fabio, che è seduto in casa, direi, su un divano in pelle, alle spalle ha un quadro di fiori e dei faretti che hanno tutta l'aria di essere Ikea. Lui c'ha su una bella felpa azzurra e guarda dritto dritto in camera. Pronto Fabio? Ciao Matteo, come stai? Per la trasmissione. Figurati, grazie. Bene, grazie. Grazie a te che hai mandato la storia. Sono dell'IKEA quei faretti che c'è alle spalle. Guarda, non lo sai. So perché non è casa la tua. Casa è, sono in affitto, quindi okay. Immagino che sì, comunque. Hai trovato quello che c'era. Dove ti trovi in questo momento, Fabio? In questo momento sono in casa, proprio lì dove c'è la foto. Ah, perfetto, sei proprio lì sul divano. Mi racconti cosa fai nella vita? Io faccio sistemista informatico per una multinazionale del settore di gomma plastica. Quindi sistemista informatico, cioè sostanzialmente questi hanno dei sistemi per fare la plastica. No, aspetta, ho detto una roba che non ha senso. Hanno dei computer che organizzano le macchine per fare la plastica, giusto? Così va meglio. Sì, anche computer, diciamo, di uffici, tutto il sistema per far funzionare, diciamo, l'ambito informatico dell'azienda. Ok, ok. E sei assunto, sei... Sono a tempo determinato, però che già comunque è già bene. E magari come va? No, sta andando bene, l'azienda sta andando bene, quindi sono contento. Senti Fabio, togliamoci subito il dente, perché la storia che ci hai raccontato, diciamo, non è più una storia, nel senso che non vi siete fidanzati o non siete più fidanzati, giusto? Esatto, esatto. Da tanto? Ah, da qualche mese. Ho detto togliamoci il dente, adesso invece ci vado dentro proprio. E come stai? Ma sì, tutto bene. Sì, no, tutto bene, tutto bene. Hai accusato un po' il colpo? Ma ai primi tempi penso sia normale. Beh, certo, capo. Ovviamente. Però come hai descritto, diciamo, quel momento lì l'hai proprio reso universale. Quindi, guarda, anche Fabio Cantadori, che c'ha un cuore di pietra di là dal vetro, ha detto effettivamente quella roba lì, anch'io, nonostante tutto. Fabio, tu cosa hai fatto per fare il sistemista? Hai studiato informatica? Ma io ho fatto elettrotecnica e dopo ho fatto diversi corsi per specializzarmi, perché è un ambiente dove bisogna sempre aggiornarsi per tenersi a passo coi tempi, quindi è inevitabile. Ok, senti, tu hai 29 anni, giusto? Esatto. Quindi tra uno ne hai fatti 30? Quest'anno. Ah, ok, perfetto, questo è l'anno dei 30. È l'anno dei 30. Senti, esatto. Ogni tanto mi capita di chiedere alle persone sotto i 30 anni che partecipano al programma, guardandoti in giro, i tuoi amici, cioè i tuoi coetanei, persone della tua età, com'è la situazione? Tu sei del nord-est Italia, giusto? Sei di Treviso. Esatto. Com'è la situazione intorno a te? La gente lavora, la gente non lavora, le persone sentono che è un momento difficile, i tuoi amici sono contenti, non lo sono? No, c'è molta preoccupazione, si sente sia la gente sia i miei amici. Devo dire che la maggior parte delle persone che conosco fortunatamente ha un lavoro, però c'è molta preoccupazione, sono sempre lavori che rischiano di essere precari e non si sa mai tra un mese se sia ancora... Cosa accadrà? Ancora qui. Va bene. Fabio, io purtroppo devo salutarti perché ho chiuso, però tu il 26 di giugno, se non hai niente da fare e se magari c'è una ragazza con cui fare bella figura, portala al live di Voi Siete Qui in via Monterosa 91. Grazie dell'invito. Che ti aspettiamo. Ciao Fabio, perfetto. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Tra l'altro è arrivato un messaggio al 349-238-6666 che dice, aspetta, un messaggio di quelli che arrivano storti, per cui bisogna un po' ricostruire, eccolo qua, straordinaria Vanessa Tagliabue York, che è la voce femminile della band di Mauro Ottolini, Sousaphonics. Sentì la sua voce per la prima volta mentre mi deliziavo il palato nel negozio di cioccolato di sua madre e chiesi chi stesse cantando così magicamente una delle mie canzoni preferite, The Very Thought of You, e la madre disse in un misto di timidezza e orgoglio: è mia figlia. Questa storia arriva da non so dove, Marina da Milano, eccola qua, Marina da Milano, arriva da qui, arriva da una zona qui vicino, ma proseguirà proprio qui il 26 di giugno di quest'anno, tra poco meno di un mese, per il live di Voi Siete Qui alle 21:30, via Monterosa 91, tutto gratuito. Tra domani, dopodomani, probabilmente dopodomani sarà possibile cominciare a iscriversi. Grazie, intanto grazie a tutti anche di questo 2 giugno, grazie a Fabio Cantadori che è stato al mixer, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina, grazie soprattutto a Fabio, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Sono Nicola, Astro Labico, e la storia di domani è la mia. Parla di Gianluca. Questa è la mia storia e io sono qui.